moi. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Two, two, two, two, hey, hey. Something, something, something, something. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Turn it on, turn it on. Call, call my name. Morning, calling out my name. It had been so long since I've heard it that it didn't really sound quite the same, no. But it let me know that my name had never really been spoken before. Before the day I carried you through the bridal path door. Call, ooh, call my name, Prince. That's right. And I call my name, ci dice Prince Roger Nelson in questa sua composizione con la quale apriamo questa puntata del Soundcheck di Radio 24 per rendere il nostro umile e sentito ringraziamento a uno dei grandi protagonisti dello showbiz di tutti i tempi. Quante volte lo abbiamo chiamato in causa, quante volte abbiamo presentato la sua musica nei programmi radiofonici e in televisione, quante volte il suo nome lo abbiamo citato durante le lunghe divagazioni notturne con gli amici musicisti e gli appassionati di musica, quante volte in questi ultimi 30 anni ci siamo chiesti se era uscito l'ultimo di Prince, com'è l'ultimo di Prince, com'è il nuovo di Prince. Sembra incredibile che fino a pochi giorni fa abbiamo parlato proprio qui al Soundcheck del nuovo album recentemente pubblicato e oggi invece ci tocca celebrarlo come una figura mitologica della discografia afroamericana. In questi ultimi due giorni, dalla sua scomparsa, vi è stato raccontato di tutto e di più sulla figura di questo piccolo grande artista che ha fortemente segnato l'evoluzione della black music dalla fine degli anni 70 a oggi, anzi fino a due giorni fa, e continuerà a farlo. E noi che lo abbiamo sempre amato e considerato un punto di riferimento per tutti gli artisti contemporanei, noi che lo abbiamo sempre citato come erede diretto di James Brown, che lo abbiamo sempre considerato all'avanguardia nel modo di scrivere, di comporre, di produrre personalmente in autonomia la sua musica, oggi qui al Soundcheck eviteremo di raccontarvi la sua storia, cosa che tra l'altro abbiamo fatto in più occasioni, ed eviteremo di farvi ascoltare i suoi grandi successi, perché lo hanno fatto e lo stanno facendo le altre radio, gli altri colleghi. Vogliamo invece rendere il nostro sincero tributo al musicista più che alla pop star. Vogliamo che venga fuori dagli speaker del vostro stereo, dai subwoofer delle vostre auto, dalle cuffiette dei vostri smartphone, tutta la passione, le pulsioni ritmiche ed erotiche, la flore funk di Prince Roger Nelson, uno dei più grandi artisti di sempre. Ciao Prince. Ebbene sì, io ho avuto la fortuna di conoscere, di incontrare Prince, non è successo in occasione di programmi radiofonici e televisivi, ma proprio al Paisley Park diversi anni fa. Il Paisley Park, il suo bellissimo regno di musica dove ha registrato gran parte della sua discografia, da sempre considerato uno studio all'avanguardia da un punto di vista tecnologico, ma anche uno studio dove c'erano delle sale attrezzate con strumentazione analogica dannata e strumenti vintage. Prince è sempre stato un collezionista di strumenti, dai Rhodes Fender, Wurlitzer, ma anche una bellissima collezione di chitarre, e infatti non ha mai nascosto la passione proprio per il suono rock della chitarra, proprio per celebrare uno dei suoi miti, Jimi Hendrix, lo sappiamo tutti. Allora, varie sale di registrazione, ma anche la presenza all'interno del Paisley Park di un main stage, una grande sala da concerto dove Prince provava le sue performance prima di partire in tournée, ma anche una sala dove molto spesso organizzava i suoi party, raramente però partecipava, ogni tanto faceva delle sporadiche e improvvise apparizioni proprio per delle jam session. E questa è una cosa che a me è sempre piaciuta di Prince, proprio lo spirito del musicista militante, quello che non si tira indietro se c'è da suonare, cosa che ha fatto molto spesso anche in occasione dei concerti di illustri colleghi. Se Prince andava a vedere il concerto, saliva sul palco e naturalmente le suonava a tutti. Sì, questo è il soundcheck di questa sera. Naturalmente stiamo ricordando il grande Prince qui su Radio 24 e lo stiamo facendo proponendo parte della sua discografia, un repertorio che abbiamo selezionato per l'occasione, per voi, secondo il nostro gusto personale, rispettando quindi anche il suono del nostro programma. Quindi abbiamo scelto brani, quelli che non hanno scalato le classifiche discografiche, i brani che non hanno portato Prince al successo popolare, ma composizioni e arrangiamenti che sicuramente mettono in evidenza più il suo essere musicista, arrangiatore e producer di musica più che di hit internazionali. Oggi doveroso tributo, ricordo, a un artista come Prince, Roger Nelson, lo sapete tutti, scomparso 2 giorni fa a Minneapolis, proprio al Paisley Park, nel suo regno. Prince, musicista, songwriter, producer, talent scout e soprattutto un incredibile performer. Io ho visto diversi concerti dal vivo di Prince, l'ultimo qualche anno fa a Perugia in occasione di un'edizione di Umbria Jazz Festival. Come sempre si è presentato sul palco con una band fortissima di giovani talenti, una band rodata alla quale Prince ha dato grandissimo spazio. È una cosa che ha sempre fatto proprio per il suo essere musicista, ha sempre dato la possibilità ai suoi musicisti di tirare fuori tutto il loro talento. Ecco, per un musicista lavorare con Prince è sempre stato un punto di arrivo, significava intanto lavorare al massimo livello possibile, ma facendo musica sul serio. Insomma, i musicisti sanno di cosa sto parlando, perché lavorare con le pop star spesso, soprattutto dopo tanti concerti sempre uguali sera dopo sera, porta i musicisti a vivere la routine del palco e della tournée un po' come da impiegati, ecco, cosa che con Prince non succedeva e soprattutto non poteva succedere proprio per il suo essere musicista, arrangiatore, producer e performer unico nel suo genere. Ecco, con lui non si poteva dare mai nulla per scontato e ogni concerto era un'esperienza a sé. Oggi è un vero dispiacere pensare che potremo vederlo in azione soltanto attraverso i documenti filmati, e soprattutto dispiace sapere che i più giovani non potranno provare quella esaltante scarica elettrica di ritmo ed erotismo che Prince scatenava sul palco con la sua musica e la sua presenza. Nothing can stop us, whatever's in our way. We gotta go through it to get to it. Heard somebody say do what I gotta do. People tell me women can do the work. Yeah. What about you? Un altro altro brano tratto dal repertorio di Prince, si intitola The Work, il lavoro, un lavoro frenetico, quello di Prince, geniale creatore di suoni, di stili, producer di album immortali che hanno segnato il corso della black music, come dicevamo. Ho sempre considerato Prince l'erede diretto di James Brown, ma anche colui che ha reso contemporaneo il suono del funk, l'artista che ha portato il senso melodico del soul più classico, come quello di artisti di Marvin Gaye, Curtis Mayfield, che facevano parte del suo background culturale, a fondersi con le ritmiche scarne e più dure dell'hip hop, del rap e del contemporary R&B di oggi. Prince è stato un compositore geniale, con un gusto melodico a volte patinato, che naturalmente gli ha permesso di affrontare però platee enormi e di essere più volte primo in classifica e spesso di essere citato anche come l'antagonista terreno dell'etereo Michael Jackson. Personalmente ho sempre preferito l'afrore funk di Prince e infatti ve lo presento con un'ultima recentissima composizione che troverete nell'ultimo album. Il brano si intitola Black Muse, Prince, al soundcheck di Radio 24. Eh sì, stiamo ricordando la figura ormai leggendaria di Prince Roger Nelson, scomparso due giorni fa, lo sapete tutti, è stato detto di tutto in questi due giorni, anche radio che non lo hanno mai suonato hanno iniziato a proporre la sua musica. Ho visto che su iTunes ci sono ben 8 album di Prince primi in classifica. Io prima vi stavo raccontando che Prince l'ho conosciuto, l'ho incontrato durante un periodo durato quasi un mese proprio lì a Minneapolis nella metà degli anni 90, perché allora lavoravo per la Go Jazz, etichetta e casa discografica del mio amico Ben Sidran, che fra i vari studi utilizzava anche quello di Prince, il Paisley Park, e quindi mi sono ritrovato lì a lavorare in questo piccolo studio di preproduzione dei fratelli Peterson, Paul e Ricky Peterson, che allora erano collaboratori stretti di Prince per le produzioni discografiche e anche per i concerti, e quindi potete immaginare la mia faccia e anche la mia emozione quando mi sono ritrovato a registrare poi in una delle sale principali del Paisley Park per una produzione del chitarrista Phil Upchurch, sempre diretta da Ben Sidran, e quindi una session con il batterista di Prince Michael Bland, giovanissimo ma enorme anche fisicamente, non solo dietro ai tamburi. C'era Bill Peterson al basso e il tutto per un album di Phil Upchurch, al quale partecipò in quei giorni, proprio la vidi in studio anche Chaka Khan. Insomma, uscendo una sera dallo studio dopo una giornata di lavoro, finalmente Prince fa la sua apparizione scendendo dai piani alti, perché immaginate il Paisley Park come una grande piramide, una grande struttura con tutti gli studi a piano terra, e poi ci sono uno o due piani superiori dove Prince aveva le sue stanze e quindi il suo appartamento, e quindi una sera ci siamo ritrovati di fronte a Prince. Bene, ci ha presentati, Prince è stato molto carino, molto gentile, era tutto vestito di bianco con degli occhiali rotondi blu, scarpe con tanto di tacchetto, anche quelle bianche di vernice, e mi ha chiesto se stavo bene, come stai, how are you doing, what you doing here, e poi mi ha chiesto se ballavo. Io ho detto ma insomma non tanto, ho detto no, perché se vuoi andare al Glam Slam, che era il club di Prince lì a Minneapolis, ti faccio fare un accredito dalla mia segretaria. E allora con Sidran ci siamo detti perché perdere questa occasione, andiamo a vedere che succede nel regno più funk del pianeta, e quindi anche quella è stata un'esperienza indimenticabile, così come indimenticabile la musica e la figura leggendaria di Prince. Dear Mr. Man, brano che pare Prince abbia dedicato a una leggenda della soul music, l'eccellente sassofonista già partner di James Brown, Maceo Parker, qui al soundcheck di Radio 24. E termina la nostra puntata, il nostro ricordo dedicato a Prince, un umile e doveroso omaggio naturalmente a uno dei miei artisti, uno dei miei musicisti preferiti, a un uomo che con la sua musica, lasciatemelo dire, ha reso la mia vita sicuramente migliore. Lo so, mancherà a tutti noi, ma noi qui al Soundcheck Radio 24 continueremo a parlare di lui, continueremo a suonare i suoi capolavori, e quindi voglio ringraziare tutti voi per l'affetto, ricordandovi che domani torniamo alle 19:15 con la puntata della domenica, quella più jazz, e vi lascio però con l'ultima scoperta di Prince Roger Nelson, un album splendido, quello che ha scritto e prodotto per un giovane talento, quello di Judith Hill. Una volta era ballerina e corista di Michael Jackson, poi è arrivata alla corte di Prince, che l'ha resa una giovane star del contemporary R&B. A tutti voi buona serata e buona musica da Gigi Telesforo. Ciao Prince. Like sea low green in a sea of red light. Might as well be famous since I ain't gonna be white. One way or another, I know I'll be alright. As trains go by, bad times out of sight. While my tits sleep, Brother Malcolm is awake. This time they won't get pie, not a piece of cake. Soundcheck, il suono della musica.